Rock FM, sono le 8 spaccate. E questa è Pane, Burro e Rock and Roll. La tua colazione roll. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Inizio della seconda ora di diretta di questo giovedì 27 settembre, puntata numero 19. È da lunedì che svegliamo i nuovi radioascoltatori e le nuove radioascoltatrici, quelle che escono dalle copertine solo in questo momento, con brani tratti dal Rocky Horror Picture Show. Essendo quest'oggi una giornata un po' cupa, un po' scura qui a Milano, con un lampione crepuscolare ancora acceso, e la cosa mi tranquillizza parecchio, perché finché c'è acceso lui c'è sempre speranza, quest'oggi ci tuffiamo in una foresta piovosa, la vostra macchina è andata in panne, però scorgete una luce là in fondo, ma è il castello di Frankenstein. Spegni il microfono che questa la canto, eh. La sveglia, amici, forza, spegni che canto. Frankenstein plays. There's a lie. Ragazzi, ho vissuto un momento inquietante, eh? Cioè, mentre parlavamo di questa luce, si è spento il nostro faro. Ah, che momenti, pelle d'oca, ragazzi. Anzi, come scrive qualcuno via SMS, muschio quest'oggi sulla pelle. Da tante emozioni stiamo vivendo assieme. Allora, ci sono parecchie mail che dovrei leggere perché sono gustosissime, e anche SMS, ma ragazzi oggi siete veramente parecchi. Un'altra strombazzata a Matt che deve di nuovo stampare la tesi, ecco presente. Qualcuno chiede, ma la cascina Molue, lo sapete che è all'aperto? Ma siamo impazziti, ormai è inverno, sarà anche rock, ma la mia lombalgia non lo sa. Fratello, decidi tu, tranquillo, noi ci saremo, tu fai come vuoi. Qualcun altro chiedeva se quanto costa, ragazzi, è gratis, è ovvio. Schiantos dal vivo, pane, burro, rock and roll, patente davvero rocker. Un saluto al gruppo d'ascolto tassisti. A Filo da Dozza che ha l'ennesimo appello del dannato esame di fisica 2. Mister Trombetta è con tre, Filo. Lui è in squadra con te, tu sei in squadra con lui? un saluto all'amico che scrive il torcicollo prima di prima mattina con conseguente giramento di palle. È rock? Molto, molto, molto rock. Allora, c'è un elettricista, non so se è elettricista o no, si firma fulminato. Per quanto riguarda il problema di questa mattina del perché i lampioni crepuscolari a destra della strada si spengono e a sinistra no, o il contrario, quello che volete voi. Guarda, però voglio precisare una cosa, quando noi diamo questi, lanciamo questi dubbi, è anche bello che non ci siano risposte, non per forza dobbiamo sempre trovare una risposta, però fulminato ce l'ha. Pistola mi dice, ma dove sorge il sole? A destra, quindi i lampioni a destra si spengono prima. E in tanti ci sgridano perché Kirk sta in Croazia. Kirk sta in Croazia. Ragazzi, la nostra geografia è messa così, eh. Non è colpa mia. Va bene, si prosegue con dell'ottimo rock and roll. Ultimo commento su la Susan Sarandon, molto milanese come inizio. La Susan Sarandon nel film mi ricorda quella bella donna, ma davvero tanto tanto bella, che era la mia prof d'inglese alle superiori. Ah, che sospiro. Mio Dio, siamo entrati nei ricordi erotici di JB. Che roba. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're promesso un carillon che emulasse la canzoncina del buon compleanno, ha avuto quattro giorni per far, ma lei lo sta facendo, lei lo sta facendo, aveva promesso che costruiva un carillon che faceva il buon compleanno. Il nostro stagista impagabile. No, lei no, è inutile che getta sempre tutto sul nostro stagista impagabile. Forse anche Spadino l'ha detto. No, è stato lei, me lo ricordo, ho la registrazione, vuole che vada a prenderla? No, le credo. Lo fa per settimana prossima? Ma ha detto colpo che lo stava costruendo. Scena, no, non la butti su Mike Buongiorno per salvarsi, la butti sui compleanni, che è meglio, via. E allora passiamo ai nati. Dai. Di quest'oggi, 27 settembre. Sì. Nel 1871 nacque. Sì. Grazia Deledda, grandissima, sì, scrittrice italiana. Buon compleanno. Buon compleanno, Grazia. Buon compleanno. Lei conosce la produzione della Deledda? Qualcosina, qualcosina. Lei ha letto Canne al vento, per esempio? Canne, colpo di scena, Canne al vento, mi dica, eh. Credo di essermelo perso, ma in compenso me ne sono fatte tante. Allora, leggo qui, che non possiamo accettare la sua risposta. Grazie. Mi fa sempre ridere quando fa Mike Buongiorno e non riesco ancora a capire il perché. Però le dico che il 27 settembre nasceva il mitico generale, il grandissimo carabiniere italiano Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nasceva nel 920 e moriva poi in circostanze... In un attentato insieme alla moglie Setti Carraro. Nell'82. Nell'82, il generale conosciuto come il grande fautore dell'antiterrorismo, delle squadre dei servizi segreti dell'antiterrorismo. E poi colui che ebbe poi l'ardire di sfidare la mafia. Esatto, poi impiegati per combattere la mafia, la quale sappiamo come agisce, quindi come andò a finire. Proseguiamo con un altro compleanno, 27 settembre del 22 nasceva Arthur Penn, regista statunitense. Mi elenchi subito almeno 2 film da Oscar. No, ma sono io che in realtà glielo chiedo. Me lo chiedo allora. Allora, chiedo. Arthur Penn, sì. Ha notato la pronuncia. L'H, sì, era meraviglioso. Arthur Penn, regista statunitense. Glielo posso dire? È un regista e produttore. Cioè, allora, dica, è stato nominato per 3 premi Oscar. Miglior per la regia nel 63, Anna dei Miracoli. Molto bene. Spada. Nel 1968 Gangster con... Story. E nel 1970 con Ellis Restaurant. Risposta il ristorante esatta. Di Alice. L'ho letta, grazie esatta, alla redazione. Esatta. Proseguiamo veloci, lei sennò... sa che non si vince nulla, non si vince un cazzo. Saranno soprattutto deluse le signorine. Nel 47 nasceva Meat Loaf, il mitico cantante. Nel 66 Jovanotti, auguri a Lorenzo Cherubini. In arte Jovanotti. Lei ha mai conosciuto Jovanotti? Non ho mai avuto il piacere. Peccato. Ma lei sa se per caso Vecchioni da ragazzo si è mai chiamato Jovanotti? Nel 1976 nasceva, era carina questa comunque, gliela tributo, era il 1976, nasceva Francesco Totti, il pupone, dico bene. Calciatore italiano della Roma, forza lupi. Chiudiamo. Le porto nel canile tutti quanti. I lupi sono la Roma o sono la Lazio? Io non a Roma. Roma. Bravo, freak. Chiudiamo. Una bella ragazza, lei giovane. Lei mi bestemmia se dice queste cose. Giovane, lupi, non ci capisco niente. Lo sa. Lo ammette. Non ci capisco nulla. Senta, ma Gwyneth Paltrow, l'avevo saltata, attrice statunitense nata nel 1972, non la vogliamo salutare. L'abbiamo tanti detta. Auguri. Chiudiamo con Avril Lavigne, cantante canadese, 84, l'anno di nascita. Tanti auguri, Avril. Tanti auguri a Lavigne. Avrilia. Si chiama Avrilia. Sembra il nome di una motocicletta detta male. No, io l'accosterei ad un modello della Lancia, la Lancia Avrilia. Anche, gliela concedo. Lancia Avrilia. Quanto mi fa ridere, mi scompiscio. 8 e 16 minuti primi. E anche The Rolling Stones sono in squadra con noi, nella squadra di pane, burro e rock and roll. Ogni giorno dalle 7 alle 9, la vostra follia quotidiana. In squadra con noi c'è anche lui, il nostro tabaccaio di riferimento, che anziché occuparsi dei suoi clienti si occupa di noi. Ciao Carlo. Ma in negozio sei da solo tu? Ok. Comunque tranquillo, dovesse entrare qualcuno, tu molla pure il telefono, eh. Cioè, non, no, noi stiamo in attesa, non c'è problema. Allora, Carlo della tabaccheria qui vicino alla centrale ci aiuta per il reparto lotto. Preciso sempre, perché sennò poi Carlo si arrabbiano gli ascoltatori. Sono numeri del lotto molto rock, non usciranno mai. E abbiamo promesso di giocarli una volta sola. Hai resistito alla tentazione? Sono per caso usciti e quindi ci abbiamo fatto una figuraccia dopo o no? No. No, ricontrollarli dovresti, perché secondo me se ci viene la carogna che non li abbiamo rigiocati è ancora più rock. Allora, andiamo con le triplette di quest'oggi. Cosa proponevi tu? Sì? Sì? Ragazzi, vi dico solo che avevamo le antenne allagate. Roba di questo tipo. Oh, allora, ripetimeli. Sì? Permettimi di sgridarti sempre. Non puoi citare la giornata prendendola dalla smorfia napoletana e non dire a giornata. Per favore. Ma nemmeno io, però, insomma, siamo filologici a pane, burro e rock and roll. Ti propongo la mia, segnamela, che poi me la giochi tu. Io la farei sulla patente da vero rocker, che la presentiamo domenica. Quindi farei patente, che è 70, farei schianto, in onore agli schiantos, che non c'entra niente, ma sonoricamente ci sta, 84, e poi a fest, vedi che io ce l'ho in napoletano, che è il numero 20. Quindi sono 70, 84 e 20. In questi giorni mi sono venute mille domande sul gioco dell'otto, ma oggi ormai abbiamo troppe cose da fare, non te le posso chiedere, te le chiederò nei prossimi giorni. Velocemente ho scoperto che anche i proverbi hanno un numero. Incredibile. Senti, Carlo, ti lascio ai tuoi clienti, tu resta sempre incollato alla frequenza, ci si risente a questo punto martedì. Mi raccomando, se escono, fammelo sapere che si divide, eh. Ciao, caro. We'll be right back. Spesso e volentieri la considerazione che facciamo dai microfoni di Rock FM è che siamo qui a far girare i pollici, che siamo qui a gettare il nostro tempo alle ortiche. Poi Roberto Fricantoni, mentre sono lì a studiare per fare i test attitudinali, scopro che anche le riviste in realtà hanno tanto tempo da perdere. In che senso? Dove vuole andare a parare? Voglio andare a parare alla classica classifica inventata da qualche giornalista che non aveva niente di meglio da fare probabilmente quel giorno, ma che ringraziamo perché ci permette di fare un ottimo test attitudinale anche quest'oggi. Test attitudinale che arriverà poi a elargire, a dare, in qualche modo a regalare, ma sì, si tratta di un regalo dovuto perché se lo sono guadagnato, è vero? La patente da vero rocker, glielo leggevo che lo sapeva ma non le veniva in mente, la patente da vero rocker. La domanda di quest'oggi riguarda ancora un sondaggio, il britannico Times a stilare una divertente classifica delle richieste più frequenti delle rockstar dei giorni nostri. Sapreste dirci di cosa non possono proprio fare a meno i paladini del rock and roll? Tre soluzioni possibili. Praline di cioccolato esclusivamente di colore rosso. La soluzione A, solo quelle rosse però, le colorate le buttiamo via. Ipotesi B, un asciugacapelli a pile, che può sempre servire, uno si deve indispensabile per ogni camerino. Esatto. Ipotesi C, la maschera d'ossigeno. E allora, secondo voi là fuori, di cosa non possono fare a meno le rockstar di oggi? Delle praline di cioccolato rosse, di un asciugacapelli a pile o della maschera d'ossigeno? Tre le ipotesi, come sempre, che vi diamo per semplificare il campo d'azione. Le risposte e le soluzioni, come al solito, a dopo, ve le diamo tra poco.